285. Cignale dolce forte. A me pare sia bene che il cignale da fare dolce forte debba avere la sua cotenna con un dito di grasso, perché il grasso di questo porco selvatico, quando è cotto, resta duro, non nausea e ha un sapore di callo piacevolissimo. Supposto che il pezzo sia di 1 chilogrammo all'incirca, eccovi le proporzioni del condimento. Fate un battuto con mezza cipolla, la metà di una grossa carota, 2 costole di sedano bianco lunghe 1 palmo, 1 pizzico di prezzemolo e 30 grammi di prosciutto grasso e magro. Tritatelo fine con la lunetta e ponetelo in 1 cazzaruola con olio, sale e pepe sotto al cignale per cuocerlo in pari tempo. Quando il pezzo ha preso colore da tutte le parti, scolate buona parte dell'unto, spargetegli sopra 1 pizzico di farina e tiratelo a cottura con acqua calda versata di quando in quando. Preparate intanto il dolce forte in 1 bicchiere coi seguenti ingredienti e gettatelo nella cazzaruola. Ma prima passate il sugo. Uva passolina 40 grammi, cioccolata 30 grammi, pinoli 30 grammi, candito a pezzi 20 grammi, zucchero 50 grammi, aceto quanto basta. Ma di questo mettetene poco perché avete tempo di aggiungerlo dopo. Prima di portarlo in tavola, fatelo bollire ancora onde il condimento si incorpori. Anzi, debbo dirvi che il dolce forte viene meglio se fatto 1 giorno per l'altro. Se lo amate più semplice, componete il dolce forte di zucchero e aceto soltanto. Nello stesso modo potete cucinare la lepre.